quello che è successo oggi è stata una fuga di qualche persona che sono scappati, sono più o meno 7 persone. Sì. È stata iniziata verso, mi sembra, le 3 qualcosa. È stato bloccato tutto fino a quest'ora di là praticamente. È stata una giornata un po' per le altre persone che sono andati via e per noi un po' qua, quelli che sono rimasti qua, quelli che ne hanno provato un po' dura, ecco. Quelli che sono provati, mi sembra, non so quante persone sono, ma più o meno sono 20, 25 persone, ecco. E quelli che hanno scappato, mi sembra 7, mi sembra, non sono certo del numero, ma da quello che mi pare sono 7, perché siamo un po' conosciamo le persone. Verso le 3 o le 4 c'era un campo e ci hanno approfittato per il momento di aprirle per andare in campo, ci sono scavalcati le reti e sono andati. E per noi quel resto che sono stati qua, per noi tutto è bloccato, anche non possiamo neanche prendere un caffè in uno spazio libero, quello dove ci sono le macchinette del caffè. Siamo stati chiusi. C'è qualcuno che ha preso le botte e c'è qualcuno che è già stato fatto male, nel quale ci sono due, mi sembra che è un pochino complicata, perché uno nelle quali ha due mani, la sinistra e la destra, tutti e due rotti, e il secondo c'ha un mano, non lo so, non mi ricordo bene, la sinistra mi sembra che è rotta. Il primo è stato portato nell'ospedale e mi sembra hanno fatto un gesso, qualcosa del genere, in tutti e due le mani. L'altro l'hanno lasciato qua dentro, l'ha detto anche personalmente il dottore, che Maurizio è il dirigente sanitario, ecco. E l'ha detto che già a lui sembra che sta male, ma lo vedono il giorno dopo, lo portano all'ospedale, ecco. Ma è stata lui, perché è vomitato questo ragazzo, è stato male, mi sembra che ci hanno portato, non lo so dove preciso, e non so di dirti precisa la cosa come è andata con il secondo. Hanno gli no, prima volevano chiudere alle 7, ma anche noi siamo rimasti un po' fuori, l'abbiamo detto che già non è giusto che anche noi, perché c'è questo ispettore, come si chiama, Antonio, ogni giorno che lavora questa qui fa di provocazioni proprio a livello, non lo so, sempre crea dei problemi, perché lui vuole sentire chi comanda, che questa cosa qua. Io ce l'ho anche un particolare per quello, il mio personale, posso anche raccontare dopo quanto lei finisce di questa, quanto inizio a raccontare la mia storia. Ieri o l'altro mi sembra che sono portati qualcosina del 30, di qualcosa del genere. Ci hanno portati questa trentina, ci hanno fatto la prologa davanti al giudice, ma non lo so per quali criterio hanno usato il giudice, come sono barcati tutti insieme, o le devono lasciare tutti o devono richiudere tutti, ma stranamente, forse la legge italiana è questa, hanno scarcerato metà e l'hanno lasciato metà, il criterio come hanno usato non lo so, ma comunque metà di loro l'hanno lasciati e l'altra metà sono rimasti qua. Sì. Quante persone ci sono adesso nella sezione maschile e quante in quella femminile, se lo sai? Dal femminile mi sembra 30, dal maschile ci sono più o meno di più di 80, di più, forse arriviamo anche a 90. E facendo un paio di conti ce l'abbiamo quanti? Ci sono due stanza, due quattro e due sei, sei stanza e altri due otto e forse un'altra 9. e forse un'altra, forse 11 stanze per 90 persone, fai il conto. Dovrebbe essere 8 li letti, ecco, quello che hanno detto le corti europee, mi sembra quello, no? Almeno spazio di 3 metri al persona, ma non c'è forse dentro la stanza uno spazio di 3 metri al persona, ecco. Noi sappiamo che è cambiata da poco la direttrice del centro. Floriana, sì, la Sì. Floriana, ecco. Io parlo sempre chiaro di cosa, come stanno e come va le cose. Io personalmente ci ho parlato con lei. Ci ho parlato con lei perché io ho uscito dal carcere, no? E sono allergico. E qua la situazione è un po', come posso dirti, siamo 8 in cella, ce l'abbiamo unico. Bagno in due bagni in una piccola stanza, no? E ce l'abbiamo due lavandini. Ma faccia lei conto quanto ci sono di più di 8, almeno 10 quanto sono entrato qua, anche 11 persone. E non lo possiamo, e possiamo lavare i vestiti solo nel lavandino dove si lava le mani con l'olio, con queste cose qua. E ci ho parlato con direttrici, ho parlato con dottori e non ce l'abbiamo né lavanderia e neanche i secchi per lavare i vestiti e neanche una penna per scrivere, perché dicono che già una penna è un'arma, ecco. E per quello già è la situazione un po' complicata, perciò uno non ce l'ha la penna per scrivere. E non può neanche lavare i vestiti perché praticamente non ci entra neanche il prodotto. Senti, ma tutte le sezioni del CIE sono funzionanti o alcune sono ancora chiuse? Ci sono, mi sembra, due chiusi, due chiusi, due sezioni da due camera e una sezione da una sola camera. E quelli sono chiusi forse per loro, per la sicurezza, pensano che sia una via di fuga o qualcosa del genere.